Grazie, si prepara il calderone cristiano. Verde, vai! Rimarrò nei 7 minuti, spero. Non scaldarti, fai 7 minuti. Cioè, io penso che tutte le relazioni, come tutte, come nei vari congressi, toccano tutto quello che è necessario toccare. Così ha fatto Rosina, e questo credo che sia un fatto, diciamo, di per sé positivo. Noi però nel dibattito dobbiamo cercare di far emergere le priorità, a mio avviso. E allora io credo che ci siano due priorità che noi dobbiamo affrontare. La prima è quella del welfare, perché noi siamo particolarmente interessati a questo, ma perché il welfare che noi abbiamo nel nostro paese è un qualcosa a cui non possiamo rinunciare. E allora io credo che il welfare si difende se, o meglio, si ridiscute, perché secondo me è da ridiscutere e da impostare nuovamente, se ci sono le risorse per fare, per mantenere, per ridiscutere questo welfare. E le risorse vengono sostanzialmente da due elementi. Il primo è quello dello sviluppo e quindi del lavoro, l'altro è quello della capacità di, diciamo, rilanciare l'economia e quant'altro. Noi come pensionati siamo interessati a rivalutare le pensioni, perché se c'è una rivalutazione delle pensioni c'è un maggior benessere, c'è più gettito, c'è più risorse per lo Stato. E allo stesso tempo questo vale per quanto riguarda lo sviluppo. E lo sviluppo c'è se abbiamo la capacità di parlare di lavoro. Qui tutti oggi abbiamo parlato di lavoro. Ora io credo però che parlare di lavoro significa però entrare con i piedi nel piatto, perché io ho l'impressione che spesso ci fermiamo alle iniziative che sono pur sempre meritevoli, ma che non producono effetti nel nostro paese. Cioè, il facilitare l'ingresso dei giovani, e questo va bene, gli investimenti, queste cose, pur importanti, sono comunque qualcosa che ha i suoi limiti. Ha i suoi limiti. E io credo che noi forse stiamo un po' aspettando che ci sia di nuovo la ripresa. Aspettiamo la ripresa? E pensiamo che la ripresa di fronte alle situazioni, ai cambiamenti che abbiamo in questo nostro mondo ci riproduca e ci dia i posti di lavoro che noi abbiamo perso in questi anni? Faccio una domanda. Perché faccio questa domanda? Perché io credo che noi non possiamo fermarci alle enunciazioni. Noi dobbiamo passare le vie di fatto. Noi dobbiamo essere in grado di avere una nostra strategia, una nostra proposta. Lo dico come pensionato, ma questo è un contributo che noi vogliamo dare alla CIS. Allora io normalmente sono abituato a non scrivere niente, non lo vado al braccio. Ho scritto due cose, poi vi dico il perché, e le leggo. Nella contrattazione aziendale andrebbe affrontato il tema della ripartizione del lavoro e della sua suddivisione in connessione con il problema della disoccupazione giovanile che, stante le attuali tendenze, è irrisolvibile nei prossimi lustri, non anni. Perché dare occupazione ai giovani? Bisogna, per dare occupazione ai giovani, bisogna ridurre gli orari e ripartire diversamente i lavori. Questo non può essere fatto in termini generali, perché le condizioni sono diverse da azienda ad azienda, da settore a settore. Metterei la clausola di rinvio come uno degli elementi chiave per aprire una battaglia sulla ripartizione del lavoro. Si è aperta una fase storica in Italia nella quale non c'è lavoro per tutti, e se vogliamo far lavorare tutti non vedo altra strada che quella della riduzione degli orari e della ripartizione, quindi della ridistribuzione del lavoro, a meno che non si adatti all'inverosimile la strategia del reddito di cittadinanza. Ora, questa cosa qui non l'ha scritta Beppe Castino e non l'ha nemmeno scritto un sindacalista di 30 anni della CISL. Questa cosa qua l'ha scritta uno che ha 80 anni che si chiama Per Carniti. Allora io credo che l'esperienza ci dica che noi dobbiamo affrontare le cose per quello che sono. In un libro che ho già citato in un'altra, sono i tempi, ho già citato in un altro congresso, un certo sociologo che si chiama De Masi, che penso Torino conosca, conosce forse voi, conosce molto meglio di me, ha scritto un libro che è una provocazione, io capisco, dove dice lavorare gratis, lavorare tutti, perché noi abbiamo la gente che lavora 10 ore al giorno, i padri, le madri lavorano 10 ore al giorno e poi si lamentano che il figlio è a casa. Cioè questa è una contraddizione folle, questo non ha niente a che vedere con quella che è la solidarietà, perché noi la solidarietà pensiamo sempre che sia un problema di quell'altro che sta vicino a noi. In Italia noi lavoriamo, diceva De Masi, 1800 ore all'anno, in Francia ne lavorano 1500, in Francia, e i francesi vivono forse meglio di noi, no, cioè vi spiego. Allora noi queste cose le dobbiamo incominciare ad affrontare. Io credo che la CISL debba avere il coraggio, come ha avuto il coraggio nel passato, di affrontare questi aspetti, di mettere nel centro della sua discussione. Poi capisco che c'è il problema, la rotta non si ne viaggiava, ma lo facciamo a parità di salario, non a parità di salario. Questa è una roba che possiamo anche discutere. Però io credo che sia necessario aprire all'interno della nostra confederazione questo tipo di versante. Perché l'oro non c'è per tutti. E allora se non c'è per tutti bisogna che ridistribuiamo da una parte la ricchezza, dall'altra parte il lavoro. Ma noi siamo chiamati a fare questo. Noi non possiamo essere un sindacato che si ferma sostanzialmente al muro del pianto e non invece prende in mano le cose e incomincia a fare la sua parte. Perché io credo che la CISL ha sempre avuto questo grande merito, cioè quella di anticipare, quella di fare delle proposte, e credo che queste cose siano le stesse cose che stamattina ci dicevano i nostri due responsabili regionali, Bogna e Cestari. E da questo punto di vista, badate, ed è l'ultima cosa che voglio dire, che forse dobbiamo incominciare a ragionare su un sindacato completamente diverso. Un sindacato, io torno a dire, che può essere un sindacato unico. Andiamo in Europa. Le cose che dicevano stamattina Mario Borgia e Cestari sono le stesse cose che diciamo noi, né più né meno. Che differenza c'è? Io un giorno parlavo con i miei due amici, compagni di Spi e Will, ci trovavamo certamente d'accordo su questo aspetto. Che differenze ci sono? Ma noi dobbiamo incominciare a fare dei passaggi, che devono essere passaggi di carattere radicale. Questa organizzazione deve incominciare a esercitare quello che è stata la sua, diciamo, funzione, che nel passato ha avuto la capacità di discutere, di fare proposte, di utilizzare anche degli strumenti che forse abbiamo un po' dimenticato, i nostri consulenti, le nostre fonti, partire da Tarantelli in avanti. Perché io credo sia questo il compito che ci aspetta in questa fase. Non possiamo soltanto fermarci all'enunciazione, abbiamo bisogno di fare qualcosa di più. Grazie.